a fare le strisce. Ciao! Ah, chi invece avvelena le pissie? Uno tira soltanto di destro, l'altro invece ci ha avuto un sinistro, e c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? Noi siamo qui, siamo pronti, se possiamo servire a qualcosa. Per chi ci ha messo il cuore, altrettanto cuore non ha trovato, per chi si è sbagliato e ci ha messo troppo sale, per chi non avrà pace finché non riuscirà a scoprire in quale maledetto barattolo hanno nascosto lo zucchero. Siamo qui con voi e nonostante tutto, come voi siamo vivi. Io sono Francesco, questa è Radio Alma e questa è Cento Città. E questo era Giorgio Faletti dal suo libro Io uccido. Non siamo partiti alla grande stasera. Lo leggevo in treno, mi è sembrata una cosa carina. Era appunto la storia di questo DJ Jean-Luc Verdier, che si sente un giorno chiamare al telefono. Questa trasmissione si chiama Voices, dove la gente può interagire. Ma potrebbero interagire anche con noi se scrivessero alla nostra mail radioalma.centocitta@gmail.com, oppure al nostro telefono 02345 2656. E appunto si dice, questo tipo dice: tu e io siamo uguali, solo che quando tu spegni la radio tu ti puoi tornare a essere libero, mentre invece io di notte non riesco a spegnere il mio male. E allora lui mi chiede: cosa fai per spegnere il tuo male? Io uccido. E questa è la cosa, ma non c'entra niente con la nostra ospite, non vogliamo spaventarla. Mi devo preoccupare. Sì. Non ancora, però cominciamo con le presentazioni. Cominciamo con le presentazioni. Allora, nome? Claire Grignolo. Claire Grignolo. Età 23. Faccio tutto io? Ma puoi fare, guarda, se vuoi. Abbiamo un vernissage qui fuori, abbiamo un concerto sono sopra. Sono nata a Torino 23 anni fa, ho vissuto lì fino ai 18 anni, mi sono trasferita a Londra per 5 anni per fare università e lavorare un po', e adesso sono arrivata a Bruxelles un mese e mezzo fa, per fare uno stage alla Commissione Europea. Molto bene, grazie, l'intervista è finita, puoi andare avanti la prossima, grazie. Allora, come mai Londra e come mai Bruxelles? Cominciamo dalla... Londra... Non puoi scegliere il posto dove nasci, questo, quindi vabbè, la lasciamo al destino. Va bene. Lo chiederemo a mamma e papà. Se Londra l'ho scelta per fare l'università, ho fatto ingegneria, specialità biomedica. Oppala! E ho deciso a 18 anni che volevo vedere qualcosa di nuovo, e quindi mi sono trasferita a Londra, dove quella facoltà lì era buona, mi è piaciuto, ho fatto 4 anni in università e poi sono rimasta a lavorare lì un anno. Solo che diventa un po' stancante mentalmente e fisicamente come città, e quindi niente, ho cercato un'alternativa altrove in Europa e ho fatto domanda alla commissione ed eccomi qua. 6 mesi dopo sono qua alla DG Information and Society. No, la IMSO! Esatto. Conoscerà allora il nostro idolo del momento, che è Luigi Scorca. Scorca Luigi, esatto. Ragazzo basso di Bari. Lui viene con un pacco, dobbiamo raccontare i nostri veri ascoltatori, quelli che ci seguono dall'inizio. Praticamente lui venne qui, penso il primo ospite della nuova stagione. Lui venne con un pacco altissimo di fogli, tutti stampati solo fronte, dove è stato intestato Scorca Luigi, tra parentesi, IMSO-EXT, e si stampava tutta la conversazione che ebbe con noi. Si lascia un foglio alla fine per le note, si stampò il Google Map a colori, perché sai, comunque le strade a colori sono completamente diverse. Rende meglio. Soprattutto il punto A, il punto B, se sono... In effetti stavo per perdermi. È vero. Ma la nostra ospite non è di GXT. Non è EXT? Non è EXT. Perché non sei classificato come EXT? Non sono come EXT. Tu stai facendo lo stage? Sto facendo lo stage. So dove vuoi arrivare. Che non sono nella mailing list degli italiani perché sono francese di nazionalità. Esatto. Quindi. Caramba, che sorpresa! È per questo che la nostra mail non ti ha raggiunto. Se no avresti esatto. Infatti, prima non capivo bene da dove arrivassi. Sì, ma stavamo parlando anche prima, lei è arrivata due minuti prima, ci siamo messi un pochino a parlare per i nostri ascoltatori. E quindi sì, papà è italiano, torinese. Papà è italiano, no, non è neanche torinese, è metà di Genova, metà di Roma, però vivono a Torino, da 30 anni, mia madre però è franco-americana. Si sono conosciuti a Portofino, pensi che romantico. Che è una cosa, storia meravigliosa. Esatto. Lui vendeva fiori e lei scendeva da uno yacht con un sigaro in una mano e la bottiglia di champagne nell'altra. Esistono le storie di Portofino. Esistono ancora le favole. E lui, lei poi arriva e lui l'ha corteggiata con il metodo SB. La donna gli ha chiesto quanto? No, no. No, non proprio, però diciamo che è finita bene e io sono... Sono nata da questa... Che cosa meravigliosa. Ma immagino che vista l'albero genealogico dei tuoi non avranno preso molto male i tuoi 18 anni preso, hai fatto saltare baracche e burattini. No, non hanno avuto molto modo di resistere, non avevano tanti argomenti per dirmi no, non puoi andare via di casa. Sai com'è? Devi rimanere qua. Poi salta fuori l'adolescente che dice ah, venga, cosa avete fatto? Esatto. No, avendo entrambi fatto l'università all'estero non potevano tanto dirmi stai a casa. Quindi Bruxelles l'hai scelta per la commissione, l'hai scelta perché volevi andare via da Londra, quindi la prima cosa che mi è capitata l'ho presa. No, volevo andare via da Londra, ho alcuni amici che hanno fatto lo stage in commissione, tutti me ne avevano parlato benissimo, io avevo voglia di uno stacco da Londra, dal lavoro a Londra e dai 5 anni a Londra per vedere qualcosa di nuovo, non so se tornerò lì o meno. Penso probabilmente che ad un certo punto ci tornerò perché mi piace. È vero. Però adesso sto molto bene. A Bruxelles si vive molto bene. Io sono andato un paio di volte per vacanza a Londra. La cosa che mi stupiva è che, beh, innanzitutto non puoi mai dire quanto ci metterà ad andare da un punto A a un punto B, perché dipende l'orario, esatto, e il lato del marciapiede. Se nel lato sbagliato sei finito, non ci arriverai mai al punto B. Vieni travolto da... Okay. Sì. E la seconda è che, per esempio, non so, uno che ha due fermate di metropolitana da Tenzo, una due, che potrebbero essere anche 5 km, ti considera già un vicino di casa, ti può chiedere di andargli ad annacquare le piante. Ah, sì, perché sì, se ci sono solo 5 km di distanza, non ti rifiuterai mica di andarmi ad annacquare le piante. Puoi perdere anche un'oretta alla un'oretta sera. Un'oretta di metro, va benissimo, no? Perché alla fine, qua a Bruxelles, meno male, calcoli che le. Ogni fermata viene un minuto e mezzo da quella precedente, no? A Londra no, cioè diventa tanto più lontana, giusto, quanto più fuori vai, no? E quindi diventa quasi impossibile, cagare, sono anche tipo 4-5 minuti fra una fermata e l'altra. Sì, sì, sì. E però anche se hai due fermate, comunque sei ancora io, non so cosa pensare. Ah, perché c'è un'amica mia che dice: ah, no, devo andare ad annacquare le piante. E un'amica mia capita tipo a tre fermate verso Ivory, ma sono 7 km. Sì, sì, però qui ci consideriamo ancora vicini abbastanza. Però invece abbiamo due cose là. La prima era il fatto che è stimolantissimo, cioè io chiaramente sì, ho visto un po' il centro, io ci morirei probabilmente perché entri, c'è tutte queste luci, colori, gente che sta in piedi con i cartelli, la musica che sentiamo è un concerto al piano di sopra, perché noi stiamo cercando da tanto tempo di avere una... Spaz di AI? Ah, abbiamo anche sì, abbiamo il programma. No, abbiamo un programma, ma ci permette di ricordare che per chi volesse restare nel quartiere, Radio Alma presenta le sessioni dell'Espace d'AI in diretto dalla Maison de Culture di Saint-Gilles, che è questa, il 21 novembre alle ore 22 si presenterà Roman Blues Rock e alle 23 Tommy Pop Rock. Se volete assistere gratuitamente all'evento potete collegarvi al nostro sito www.radioalma.be e scrivervi gratuitamente per chi volesse restare nel quartiere, insomma. Bravo. Grazie. E la seconda cosa è la concezione che hanno dei musei. È straordinario. Sì, fantastico. C'è sti ragazzini che corrono intorno ai sarcofagi, da noi ci vanno tipo le guardie, il cancello elettrificato, non li toccano, ci vanno dentro. Sì, tutto da toccare, da... È bellissimo. Sì, sì, molto accessibile, è vero. Io mi dava questa sensazione di esserci dentro, no? Se ci entri quasi dentro, è una cosa bellissima. Bruxelles invece toccare potrebbe essere un pochino pericoloso. Sì, esatto. Tu guardi il cielo quando vai per strada? Sì, e sono rimasta sconvolta dal fatto che dopo 5 anni di Londra, dove le nuvole viaggiano abbastanza veloci anche lì, qua viaggiano al quintuplo della velocità, è pazzesco. Benvenuta. Sono... L'inverno non è appena riesco ancora alle a capacitarmi. L'inverno è appena alle porte, sarà solo il minimo della depressione che ti aspetta. No, non dirmi così. La cosa bella è quando arrivano i belgi, ti anticipo una cosa, che febbraio o marzo, che sono già comunque, insomma, freddino, cioè c'è il vento freddo, appena esce un po' di sole, lì vedi tutti che vanno sui pratini con il loro flip flop, con la birra in maglietta, loro stanno benissimo, c'è il sole, andiamo a fare 40 gradi, ma ci fossero 40, però è la stessa cosa, no? Sbuffano un po' in agosto, però fa troppo caldo però la cosa impressionante è che dopo 3 mesi di grisume anche tu diventerai guarda, dopo no, Londra ti insegna che dal grigiume diventi grigio anche tu, quindi quello sono abituata. Però ammetto che la mia prima settimana qua, che era la prima di ottobre, ha diluviato per 5 giorni di fila, e sai quando arrivi in una città nuova, non conosci tanto, non conosci vuoi tante uscire. Persone, hai voglia di uscire a vedere la città, e ha diluviato per 4-5 giorni di fila, e lì mi sono detta no, non puoi avere scelto l'unica città europea dove piove più che a Londra. Dopo si è riavuta, diciamo. Però. In che quartiere hai scelto la tua residenza? Sono qua vicino. Tra la metro di Louise e il Parvis de Saint-Gilles. Ah, bene, una bella zona, carina. Sì, infatti sono andata a piedi. Non mi spiace per niente. No, carina, anche io vedo in fondo a questa strada meno di Urua. Per chi volesse passare dopo la discussione. Queste 5. Uno che parte sinceramente 5 anni a Londra perché ti piaceva l'università, cioè tu hai andato poi al liceo, cosa fai? Ma forse vado al Politecnico, forse vado a studiare a Milano, mi sono magari io vado a Londra, mi sta no, facoltà è buona, la facoltà, conosco un paio di professori. No, ho scelto la facoltà, ho deciso che volevo fare ingegneria, mi piacevano le scienze, biologia, fisica, quelle materie lì, nonostante stessi facendo il classico ai tempi, e quindi ho guardato un po' in giro, c'era sia il Poli a Torino sia il Poli a Milano, ma amici di amici conoscevano questo ragazzo che faceva questa università qua a Londra. Abbiamo grandi storie di ragazze che mollano tutto per andare da un ragazzo conosciuto alle superiori. Non ho mollato nessuno per andare da questo ragazzo qua, ma lui mi ha trasmesso un super entusiasmo per questa facoltà. Ci stanno ascoltando? No, non ci stanno ascoltando. Potranno farlo dopo sul nostro blog, radio.blogspot.com. Potete ascoltarci in diretta quello che diranno di voi. E quindi questo ragazzo ha un super entusiasmo, sì. Esatto, lui quanto è durato questo super entusiasmo? Quanti mesi è durato questo super entusiasmo? No, ma non sto scherzando, non era un super entusiasmo in quel senso. Anzi, era il migliore amico del mio ragazzo ai tempi, che non era molto contento quando mi ha convinto ad andare a Londra. Sarà finita con amicizia. Ovviamente dopo 3 mesi è finita tra me e il ragazzo di Torino. Perché è una storia solida proprio. Poi Torino-Londra non è che si comunichino molto bene. Non mi stia ascoltando. Abbiamo di peggio. Quindi comunque insomma e quindi niente, avevo fatto il colloquio per andare in questa università qua e, mi era piaciuta, mi hanno detto se prendi più di un tot alla maturità puoi venire, e poi ho preso più di un tot e a quel punto lì ho detto bene, adesso andiamo. Sono curioso di sapere quanto era questo tot. Se prendi più di 100 su 100 puoi entrare, era cioè. 92 su 100. Oh, che sborrona. Dai là, ma si può essere sborrona, però così. Non ho preso 100 e non sono così secchiona, ho preso 95. Poverino, cioè già muore. Ma come mi dispiace davvero, che cattiva sorte proprio, sorte maledetta se ci vuoi fare. E quindi in questi 5 anni poi racconta perché alla fine Torino sì, sono legati, li chiederemo poi ricordi della tua infanzia a Torino, alla Torino Operaia, a Torino di Mirafiori. Ma questi 5 anni da studente a Londra? Perché molti alla fine, forse cioè, vanno a Londra, alla fine magari insomma. Dopo. Sì. Provo a spaccare, a fare il master, vado là per lavorare, intanto imparo qualcosa, ci vanno dopo. Sì, sì. C'è sì. Una delle poche che in realtà sento che ci va, cioè, dopo il liceo, vado a studiare a Londra. Sì. Dopo la maturità non c'è tantissima gente, soprattutto dall'Italia, e a me è piaciuto da morire, mi sono divertita tantissimo e lo rifarei domani, ricomincerei domani a farlo. La cosa che è bellissima quando arrivi lì è che il primo anno sono tutti nel dormitorio studentesco, perché sono tutti un po' nella tua condizione, prima tutti hanno 17-18 anni, sono prima volta fuori che gli casa, vanno, c'hanno il moroso ancora lasciato tutti a casa, devono, sì. Esatto. Toga. E no, quindi non sei capisco con altri 1500 studenti della tua età, che condividi praticamente cucina, bagni, purtroppo ci sono delle situazioni non bellissime ogni tanto, però fai delle amicizie che a me sono rimaste delle amicizie pazzesche. La cosa che spiace un po' dopo il primo anno, quando non puoi più stare in dormitorio e dover andarti a trovare una casa altrove, e lì diventa un po' caro, perché la mia università era in centro a Londra. Qual era? Per le cronache, Imperial College. All right. Che è a South Kensington, sì. Che è carissimo. E quindi uno va a cercarsi una casa un po' più fuori, più vicino alla zona 2, come dicevi prima. Dove è 15 ore di metro, mezzo. Sì, già un'ora di metro, comunque sei quasi fortunato. Sì, sei quasi dietro l'angolo. Devi ringraziare il cielo. Sei quasi dietro l'angolo, già, però sei vicino. No? Sei vicino all'università, insomma. E a quel punto lì sono andata a vivere con una mia amica con cui sono poi rimasta 3 anni e abbiamo finito l'università insieme. E esperienze stupende. L'università, io non ho il termine di paragone con l'Italia, però hanno delle strutture pazzesche. Il mio corso era piccolo, eravamo in 60, quindi tutti molto seguiti. Se avevi bisogno di aiuto, c'erano tutti i professori lì per te, mandavi un'email. Ti rispondevano addirittura. Ti rispondevano e ti dicevano vieni a trovarmi nel mio ufficio. Sì. Devo dire che da quel punto sentivo i racconti dei miei amici in Italia invece che mi dicevano no, noi siamo a Palazzo Nuovo che è l'università di Torino per legge, per lettere, filosofia anche mi sembra e mi dicevano è perché noi andiamo a lezione, siamo in 150, non c'è posto a sedere, aula di 30, sì. E non sappiamo mai quando saranno gli esami, se fissiamo una data per un esame poi viene spostata, da noi era tutto, filava tutto molto liscio. E senti, la versione per quanto riguarda il primo anno, la versione ufficiale per mamma e papà qual è stata? È stata che sono stata bravissima, cioè, per un anno, niente. Ho passato tutti gli esami, quindi non hanno potuto dirmi niente, non hanno potuto fare troppe domande. E... arrivi a casa con gli occhiali scuri, ti rimi per 4 giorni fa a passare le occhiaie, esatto. Sto sola che sono abituata, sai com'è. No? Sì, mi ricordo che dopo i primi tre mesi sono arrivata a casa per Natale, quindi ero stata via da settembre a dicembre, prima volta fuori casa da sola, a vivere da sola, sono arrivata a casa con una valigia piena di roba sporca per la mamma che era felicissima di rivedermi a quel punto lì. Mamma che era verde. Esatto. E sono ripartita con la valigia, con la roba tutta stirata, pulita, fantastico, e piena di manicaretti vari, tipo, vabbè, la pasta fatta a mano. Capisco. Io ho fatto il primo Natale qui perché quando io ho scelto Bruxelles, perché praticamente avevo finito questo Leonardo, preso da questa cosa, che cazzo faccio dopo l'università, facciamo il Leonardo. Avevo fatto sia il corso di spagnolo, il concorso per spagnolo, e quello per inglese, che era poi andava a Bruxelles. Allora bene, mi chiamano, allora è passato sia spagnolo che Bruxelles, poi andare a Barcellona o a Bruxelles, e io, beh, Bruxelles ovviamente, volendo dire Barcellona, però pensavo a Bruxelles, io penso non devo dire Bruxelles, come succedeva Homer Simpson, disse Bruxelles, provai a richiamare, ma in realtà era occupato perché io ero tipo il primo nella lista, stavano chiamando gli altri, quindi quando finì, dopo mezz'ora chiamai, disse, ma sei ancora, no guarda, siamo già via, allora così sono venuto a Bruxelles. Era proprio, e la cosa bella è che io lo dico ai miei, guarda, vado a Bruxelles, mia madre fa Amsterdam è così bella, sì, però io vado a Bruxelles, Amsterdam, e quindi vennero su per Natale per andare a Amsterdam evidentemente e mi portarono 2 valigie, una con la roba da vestirsi loro e un'altra con tipo, c'era un salame che era lungo in diagonale con tutta la valigia, cappelletti vari, il sugo congelato nella bottiglia di plastica imbarcato con la valigia, insomma. Beh, scusa Giulio, si è appena fatto un viaggio niente male per venire su. Questi emigranti che devono portare i prodotti. Esatto. Io queste cose non le capisco. Come se qua non si trovasse l'olio d'oliva. Col buono... Col buono che è il prosciutto qui a Bruxelles, voglio dire. Ho provato per 100 kg di pasta. Ho paura di tornare a casa perché potrebbe essere esplosa la cucina a trovare tagliatelle. Bene, allora direi, cosa facciamo? Chiudiamo allora questo primo ricordo degli anni londinesi, anche con una certa fame, visto che siamo in gastronomia. Primo pezzo musicale, Giulio! Allora, siamo ancora qui. Sì, non siamo scappati. Non siamo scappati. Non Giulio ha corso di là perché c'è la canzone sta finendo, Giulio ha corso di là. E quindi allora abbiamo chiuso con i 4 anni più uno in cui ho lavorato. In cui ho lavorato a Londra, sei venuto a Bruxelles, prima settimana pioveva. Sei venuto a Bruxelles a fare lo stage in commissione. Esatto. Delle GIMSO. Extra. DG IMSO, esatto. DG IMSO sono nell'unità che assegna i fondi per la ricerca alle biotecnologie e le nanotecnologie, quindi è inerente a quello che ho studiato, probabilmente saranno tutti lì che dicono che noia, che barba, cos'è sta cosa, cosa chi te l'ha fatto fare, invece no, a me interessa abbastanza, prima ho lavorato per, ho fatto un anno in consulenza per il settore farmaceutico, quindi l'esperienza qua è settore pubblico che, ad essere molto sincera, non so se vorrò continuare, perché non è... Dicono tutti così, anche io ne conoscevo uno, mi diceva, ma io sono del pubblico, non sono in privato, poi adesso sta in commissione, l'ho rincontrato e mi fa, ma sì, buono, ma chi me lo fa fare di lavorare di più e essere pagato di meno, sto nel pubblico. Quindi no? Sta facendo il concorso. E quindi non lo è già commissione, diceva, ma chi me lo fa fare adesso, sono qui per tre anni, e poi chi me lo fa fare di tornare nel pubblico, sa, lavorare di più sarei pagato di meno, ma chi me lo fa fare? Allora uno è quello che diceva, no, no, no, io il pubblico, no, no, no, io voglio il privato, voglio una cosa dinamica, come dicono tutti così. Guarda, per il momento sono anch'io così. Adesso sto facendo domande altrove, a Londra, in Svizzera, per case farmaceutiche, un pochino anche a Bruxelles, però nel privato. E non penso di fare il concorso, anche perché con le restrizioni che ci sono adesso per italiani e francesi, che sono le due nazionalità di cui dispongo per fare il concorso, non siamo ho molte chance per entrare. Io sei tipo uno zio maltese, non c'è qualcuno sloveno, no. Qualcuno proprio, cioè, che è vero, è nati dal punto sbagliato, esatto. Adesso sì, se sei rumeno è fantastico, cioè, no. Ti stendono un tappeto rosso, credo, per, ma anche perché io c'ho un'amica mia rumena che fece il la Colombia in Finlandia quando fece l'Erasmus, e poi tornò in Romania e venne in Belgio durante il mio primo anno a fare il collegio di Bruges, e mi ricordo che ci incontrammo una volta alla stazione, mi in corso incontro e mi dice, grazie, avevi pagato la borsa di studio a Bruges con i soldi comunitari, grazie, grazie, grazie. E lei mi spiegava che, diciamo, non è possibile, che devono, se almeno diciamo anche lei, ma come è possibile, fa, perché da noi ci sono pochissimi laureati, è vero, cioè noi abbiamo comunque, perché abbiamo avuto più possibilità da più tempo, abbiamo più però ti voglio chiedere una cosa, chiarificare la posizione di consulenza nell'industria farmaceutica, la posizione di consulenza nell'industria farmaceutica, lavoravo in un team che i cui clienti erano grandi case farmaceutiche, adesso non so se posso fare nomi o meno, forse meglio di no, quindi evito, comunque la maggior parte sono quelle svizzere o americane. Che hanno, io lavoravo nel settore della ricerca e dello sviluppo per i nuovi farmaci, esatto. Interessantissimo, pure avanti. Vivisezionali, andare a cantare i barboni per vivisezionali, no, sì o no? Era più la società che viene da te e ti dice, ho bisogno di uno sguardo dall'esterno per vedere cosa sto facendo bene, cosa sto facendo male, come posso ottimizzare le mie risorse, vi do 6 mesi per fare uno studio e poi voglio i risultati e voglio anche che mi aiutate ad implementare le raccomandazioni che date. Porco cane. No, molto divertente, mi piaceva, però come ti ho detto prima ero stanca di Londra e quindi sei venuta alla bella Bruxelles, esatto. Tu ci arrivi nel discorso alla festa, c'è una festa Pordeal, la festa che è pubblicizzata tra l'altro da Centro Città, no, si chiama Antitapas, non ci hai ascoltato evidentemente, non c'era, ma ci ascolterai da ora in poi, esatto, guarderai sempre il nostro blog, chiaramente sì, radioalma.blogspot.com, ci ascolterai 101.9, sì. Tutti i giovedì sera alle 20 ci farai ascoltare, chiaro. Manderai la registrazione e vi manderò anche dei miei amici da altre città. Oh, finalmente mantieni questa promessa, che tutti quanti ci dicono, certo, sì, siete brevissimi, manderemo un sacco di gente, poi c'è no, una domanda per te invece, 100 sì. Città, ma quante città siete arrivati? Ma l'hai fatto tipo 8 volte a Roma, 6 volte Milano, Parma 3 volte, Torino credo. C'è già stata? Torino non c'era mai stata, Torino non c'era mai stata, inauguro. C'è stata tipo Livorno l'anno scorso, è stato un Follonica, un Follonica Ravenna con poi c'era Faenza, c'è stata una città Perugia, Napoli, Bari. C'è un ragazzo sardo di Cagliari, ottimo, la commissione, ottimo, che adesso vi manderò. Ma magari. Ma comunque Torino non è che ne abbiamo ancora parlato molto. Torino, parliamo di Torino, che ricordi hai di Torino? Cosa provi quando vai a Torino? Torino sto benissimo quando torno. Quando sono partita avevo veramente voglia di andare via, mi stava stretta. È una città non grandissima per i miei, cioè vabbè, per i miei canoni degli ultimi 5 anni, abbastanza piccola, diciamo, effettivamente. È una città di campagna, quasi un paesone, non è neanche una città, un paesone, no? No, però a me piace da morire. Sono tornata spesso, i primi anni meno, però ultimamente torno, direi, una volta ogni 2 mesi cerco di tornare. E ogni volta che torno ho proprio la sensazione di essere rilassata, di essere a casa e di essere in una bella città. Secondo me di città italiane ne ho visto un po', e soprattutto dopo le Olimpiadi Torino è stupenda, l'hanno rimessa tutta nuovo, hanno rifatto un sacco di bei palazzi, hanno rifatto un sacco di musei, tra l'altro non mi fare domande sui musei perché purtroppo non sono ancora riuscita a vederli tutti come vorrei. Io mi ricordo solo la Colossa Egizia fatta in una gita scolastica in terza media, Museo Egizio evidentemente, sa le pareti, sa quelle vecchie che le pitturavano, ma ti ci gratti se ci passi. Adesso hanno rifatto tutto. La Colossa Egizia era appunto quella di spintonarsi in corsa contro che la parete, questa è l'unica cosa che mi ricordo del Museo Egizio. Oltre alle mummie. Ma non me l'ho vista, le mummie stavano correndo, quindi passavano veloce, non le vedevamo le mummie, quindi questo evidentemente non è... E beh, allora dunque, sicuramente tu, vissuto da sola da tanto tempo, prima a Londra, a Bruxelles, saprai cucinare, saprò cucinare, saprai, sì, cucinare, so cucinare. Sai cucinare? Sì. E allora a questo punto, diciamo, entriamo ufficialmente nel nostro angolo della cucina. Culinario. E dovrò rispondere a una semplicissima domanda. Va bene. Cosa prepari a un ragazzo per conquistarlo prima di farlo ubriacare? Via col tempo. Prima di farlo ubriacare? Beh, magari lo faccio ubriacare prima. No, deve apprezzare, deve pensare che tu non lo vuoi salvare perché sono sposato. Se uno si dice, vado là così mi faccio ubriacare per bene, dopo non è carino. Invece no, facciamogli credere che ci teniamo, facciamogli credere che non vogliamo solo portarci le letto, ma che vogliamo anche che ci piaccia un po' di conversazione, che vogliamo dividere qualcosa con loro, che vogliamo che gustino la nostra cucina. Non è vero, lo sappiamo benissimo, che vogliamo solo che se ne vadano a fare. Ma l'importante è la forma iniziale. Ma l'importante è comunque, salviamole queste forme, un po' come la foie gras, salviamole. Sono in via di estinzione. Va giusto? Bene. Senti, se devo fare colpo con un menù piemontese, mi tocca recuperare degli agnolotti del Plin. Ah, io interrompo subito. Il signor Scorca ci ha provato a vendere le orecchiette con la panna come piatto tipico pugliese. Non ci provare, non funziona. No, gli agnolotti del Plin sono tipici piemontesi. Oh, fin qua proprio, no, fare controlleremo. Spiegaci cosa sono. Carta e penna, amici ascoltatori. Sono degli agnolotti fatti con di carne. Cos'è agnolotto? L'agnolotto è una pasta fresca. Ottimo. Direi potrebbe essere un cugino del raviolo. Potrebbe essere un cugino del raviolo. E quindi ha una forma, direi, quadrata. Quadrata. Ed è ripieno di carne. Io sto scrivendo, dite. Penna che scrive. Ripieno di carne. E, a me piacciono molto burro e salvia. Mm-hmm. Che è anche abbastanza semplice. Certo. Non mi complico troppo la vita. Verità. Con tanto parmigiano. Bene. Anche da noi a Parma si dice, abbiamo, si chiama gli annolini o cappelletti, e si dice che devono essere, così come trattati di erbetta, devono essere affogati nel burro fuso e salvia e asciugati col parmigiano. Mamma, mi sta venendo fame. Esatto. Tra un mesetto siamo a casa. Ora veniamo al sodo. Lei mai fatta sta cosa? Quando ti voglio portare, insomma, quando vuoi fare ubriacare qualcuno, lo facevi ubriacare subito, visto che gli inglesi c'avete. Gli inglesi bevono tantissimo. Hanno il pasto liquido, no? Hanno il pasto liquido. Tutto quello, sì, che devo, tutte le calorie che devo prendere le bevo. Le bevono in birra anche. Neanche in vino. Tu questo piatto ti sei mai sforzata, sbattuta così tanto che non ti voglio portare a letto qualcuno? Ordinami una pizza Hut o il cinese o il Thai? E no, poi ho fatto delle cenette romantiche di cui andar fiera. Non ho mai fatto gli agnolotti del Plin. Il tuo ex ragazzo, anche durante i primi 3 mesi in cui eri Londra, hai fatto cenette romantiche? Perché il ragazzo con cui stavo a Torino non veniva a trovarmi. Certo, quindi niente. Se no l'avrei fatto. Brava. Decidiamo di crederle. Segni per 10 secondi. Non so cosa rispondere. Salutiamo l'ex ragazzo che vive ancora a Torino. Siete ancora, sì, in contatto? Sì, vive ancora a Torino. Siamo ancora in contatto e siamo buoni amici. Però spero che non stia ascoltando. Se comunque volesse ascoltarci, potrebbe sempre farlo. 101.9. Se vuole venire a Bruxelles un giovedì sera, comunicarglielo. Magari cerchiamo di farlo tramite Elena. Cercherà una volta, ti ubriacheremo. Cercheremo di dire, ma dammi la sua mail, così magari poi gli facciamo sentire la puntata. Magari è contento. Tra l'altro, sei ancora in contatto con il suo ex miglior amico? Oppure? Sì, sono amici anche loro e siamo amici anche noi due. Che belli questi tri di gioventù. Sì. E passiamo invece al sodo, come li fai ubriacare? Come li faccio ubriacare? Guarda, io bevo poca birra perché non mi piace, quindi sono nel posto sbagliato, lo so. Questa non è molto più che birra qui. Però guarda, ho sopravvissuto 5 anni a Londra senza birra, quindi beh, lì fai poco, fai bene a sopravvivere senza birra, sì. Lì piuttosto, guarda, acqua, vodka. No, io bevo vino bianco di solito, vino rosso è un attimo, lo trovo un attimo pesante, quindi se qualcuno vuole far ubriacare me, vino rosso. Lanciamo un appello su Radio Alma 101.9. Infatti è entrata in studio con un bicchierino. Sì, sì, esatto, tra l'altro era. Abbiamo messo una canzone e ma dove arriva questa qua? Vuoi dire che è ancora la classica italiana che arriva a quarto d'ora in ritardo? Lei era il vernissage di qua che mi sta pimplando tutto il vino. Ah, ragazzi, ciao, ma eravate qui? Ah, non pensavo. E ringrazio che non ho bevuto il vino rosso perché. Infatti, ha un bicchiere di bianco che presto sparirà. Perché durante la pausa lei provvederà a farlo sparire. Esatto. Perché infatti non, questa sera c'è un vernissage, quindi di fianco sta una tentazione enorme perché vino e birra erano gratis e quindi comunque meno per noi, forse perché siamo belli, però ce l'hanno passati così. Ci hanno anche ringraziato per l'organizzazione della serata. Ci è passato uno, ci ha ringraziato, fa ragazzi, bello organizzato la serata. Tranquillo, va bene. Non c'è di che. Non c'è di che. A proposito di organizzazione, a proposito di serata, io anticipo un attimo l'angolo cultura, innanzitutto per dire che la festa anti-tapas di venerdì scorso, alla quale Centocittà partecipato comunque promuovendola nelle proprie trasmissioni, ha avuto un grande successo al di là delle aspettative e i ragazzi di Palais Science probabilmente la ripeteranno il 12 dicembre, l'11 o 12 dicembre, e comunque ve lo faremo sapere sempre attraverso i microfoni di Radio Alma e di Centocittà, e ve lo potete trovare anche sul blog. Noi eravamo là, eravamo tutti, non eravamo in condizioni, cioè qualcuno ci avesse riconosciuto, non eravamo in condizioni di essere riconosciuti per la voce, quantomeno la mia voce era un pochino alterata. Giulio l'ho perso verso l'una, io ero con un'amica mia che è arrivata con un suo compagno, ufficialmente compagno di corso di francese, lui non se l'è cagata tutta sera perché stava con i suoi amici spagnoli e quindi alla fine di lei, io visto che eravamo lì, se si beveva, si faceva le chiacchiere, alla fine questo qua quando la vede completamente ubriaca viene e fa l'avvoltoio, se la porta via, la sbatte contro il muro e manda se l'hai suonatore. Minimo sforzo, massimo risultato. Fantastico, hai capito tutto, ragazzi, non avevo ambizioni, ma veramente tu sei, io devo imparare da te, alla fine mi guardo che la pure una bacca sulla spalla, ma aspettavo che mi dissi anche tipo i 5-10 euro di mancia per il buon lavoro, a questo punto mi sembrava il minimo. E ricordiamo allora che questo sabato, per chi vuole stare in quartiere, c'è la sessione dell'Espace d'AI qui alla Maison Culturelle de Saint-Gilles, se no per chi volesse andare verso il centro c'è una ci sono due ospiti, due amici di Radio Alma di Centocittà, che sono Emilio e Nacho, che suoneranno al Rincon de Spagna Casa Miguel questo sabato a partire dalle 10 spagnole, quindi insomma io consiglio mezzanotte. Per chi volesse andarci prima delle 11 sicuramente di non farsi neanche vedere. E dicono gli stardenti che il Miguel della Casa Miguel è il calvo e non il grasso, quindi è il gordo. Il gordo è nel Rue de l'Abattoir 43 in centro a Bruxelles, e questo ci sarà un concerto da parte di prima Nacho e poi Emilio, che ci faranno che ci riproporranno il loro grande successo tra cui Tagliatelle e roba del genere, ed è in occasione appunto del 10° anniversario della morte di Enrique Urquijo, che è un compositore dello Secreto, sono dei gruppi più influenti del pop spagnolo degli anni 80. E Nacho tra l'altro suonò due anni fa nella Sala Galleria di Madrid con il suo gruppo DOS con una canzone dedicata a Enrique che si chiamava La Muerte Che Malasagna. E quindi insomma, per chi volesse andare, è una bella occasione, suoneranno, sono amici di Centocittà coprirà l'evento, cioè meglio, noi ci saremo, probabilmente non saremo riconoscibili, almeno non dalla voce. Ne saremo in borghese, con gli occhiali scuri, con la 24 ore, il nostro impermeabile di ordinanza. No, ma sono una sobria tanica di vino. E quindi insomma, perché è una bella cosa, a partire dalle 10 sabato 21 al Rincon in Spagna Casa Miguel, a Rue de l'Abattoir 43, 1000 a Bruxelles. Buonasera, siamo ancora noi. Centro Città, sono le 20.44 di questa sera del 19 novembre qui a Bruxelles. La nostra ospite Torino, che dice Torino, dice, o diceva meno fa un poco tempo fa, groove, il subsonico, tutto quel panorama groove. Tu però te ne sei nata negli anni belli. Io purtroppo li ho persi tutti e cinque. È stata proprio una... Sono stata in esilio. Ma tu lo sapevi che sarebbero scoppiati gli anni del groove prima di andartene? Guarda, durante la maturità non avevo questo presentimento, quindi ho deciso che preferivo andare a Londra. Ho rischiato e non è andata male. Come disse la Dandini, ho imitato D'Alema prima delle elezioni del 2001, ma allora perché vi candidate? Beh, uno ci prova. Senti... parlare della scena musicale londinese. Si potrebbe parlare della scena musicale londinese. Aiuto. Parla, Luquisci. Parliamo, guarda, scena musicale londinese, ci sono concerti per tutti i gusti. Io ho visto un po' di tutto, da classico a pop. Ho visto uno dei concerti che mi è piaciuto di più è stato quello di Bruce Springsteen l'anno scorso, allo stadio all'Emirates Stadium nel nord di Londra. E, stupendo, del nuovo album. Io ero nel Prato, quindi prima volta che vedevo Bruce Springsteen nel Prato, fantastico, non poteva andarmi meglio. Altri concerti che ho visto Mika, che a Londra fa abbastanza faville. Boom, boom. Sì, esatto. Devo dire che è divertente, è un intrattenitore, sa farti divertire, sì, per quanto magari la qualità della sua musica non sia magari... Ma ci sono queste presenze scene, questi sì, ancora sì, mai terribili, proprio, però sì, che magari cioè, beh, ti prende. Non sono lì per la musica alla sì, fine, no? E poi ho visto un concerto di Ligabue. Pensa, ma cantava in inglese, tipo ha fatto un concerto in un teatrino stupendo che si chiama Coco, nel nord di Londra di nuovo, dove fanno tutte queste sessioni un po' alternative. Ed è stato un ritorno, una specie di ritorno in Italia da cui sono uscita. Io sono andata con una decina di amici italiani, era un annetto fa, un anno e mezzo fa, e solo italiani, sembrava di essere in Italia. Poi carino, in un vecchio teatro, sono uscita con un po' di nostalgia. Era acustico, era appunto un concerto acustico, era un concerto con la batteria? No, era con batteria, sì. Pensa che Ligabue è un animale, cioè in Italia fa concerti dove riempie gli stadi, sì, prendono il campo, sì, sì, sì, prendono infatti, il campo volo di Reggio Emilia a fare concerti di Ligabue, e non me lo immagino sullo stage piccolino, lui che suona ancora, perché comunque è una dimensione che non gli appartiene più, comunque in Italia ha dovuto addirittura per sfuggire quasi cominciare a fare i film e i libri per sfuggire un po' da questa dimensione, da questa trappola del concerto che era sempre grosso, no? Sempre queste cose. Mi ricordo cos'era, 99, fu vederlo appunto a Campovolo ed era appena uscito il suo album seguente a Buon Compleanno Elvis. Era un delirio, ma non ti puoi immaginare quanta gente sembrava di vedere Bruce Springsteen, cioè che correva da questo palco a uno, che correva da una parte all'altra di questo palco, con questa chitarra che evidentemente faceva solo finta di suonare perché non si poteva. Sì. Era un animale. Cioè, le cose della musica era quella che era, un po' tutto uguale, però era un animale da palcoscenico, terribile. Sì. E Londra a Torino, dice che torni spesso, dove vai quando torni? Cioè, nel senso, se io volessi andare a Torino per un paio di serate, posti belli, posti dove popolari. Dove vado a Torino? Dipende dalla stagione. D'estate ti direi il Cacao, che è un mega anfiteatro in mezzo al Parco del Valentino. Mm-hmm. Tutto all'aperto, sembra un po' di essere in un villaggio vacanze, fanno musica dal vivo fino a una certa ora, poi dopo diventa più discoteca. Esatto, ti senti un po' in un Club Med, credo, non sono mai stata in un Club Med, ma credo che come sensazione sia abbastanza simile. Tu ti imparevo a fare i balli di gruppo. No, però è bello, l'unico problema è che ogni tanto, se a settembre verso la chiusura piove, ovviamente essendo un anfiteatro all'aperto diventa un attimo difficile. Tu non arrivi all'improvviso a Torino. Esatto, a Torino all'improvviso. E invece d'inverno direi i Murazzi, che sono stupendi anche d'estate. I Murazzi, per chi non fosse i Murazzi, profano. Allora a Torino c'è il Po, E vicino, lungo il Po, ci sono delle zone in cui, vicino a due dei ponti principali, ci sono un po' di localini vicino, cioè, diciamo sotto il livello della strada, ma sopra il livello dell'acqua. Sopra il livello dell'acqua, esatto, un po' un mondo, un purgatorio, un intermezzo, con tanti localini in questo intermezzo che purtroppo, quando c'è il fiume in piedi, vengono allagati. Ma si rinnovano sempre. Però si rinnovano sempre e sono sempre gli stessi da un sacco di anni. E, adesso che tornerò a Natale, ci sarà la festa di Natale, penso di solito il 23 di dicembre, che è un'istituzione per tutti i torinesi che tornano dall'estero o che vivono lì. Puoi anche arrivare il 23 sera alle 10 e andare diretto lì dall'aeroporto e sai che vedrai tutti i tuoi amici che sono lì per Natale, potrai salutarli e sarà, di solito sono delle serate che finiscono un po' male a livello, diciamo, alcolico, esatto, il fegato si ribella, caramba che ci si rivede, esatto, non finiscono sempre benissimo, soprattutto per i festeggiamenti del 24 con la famiglia, non è proprio... No, non me ne parlare, una volta ne ho preso talmente una, sennò ha dormito poco, sarà proprio quello, ero quello proprio, e poi mangi perché esatto, devi mangiare, esatto. Era terribile, anche una volta mi sono fatto una così, ero tipo tornato il 22, no, il 23 sono andato fuori con tutti i ragazzi, li abbiamo portati fuori, c'è un posto a Parma che si chiama Frank Focaccia, un bar luridissimo, ragazzi sono pagati uno schifo, però sono le birre belghe a prezzo tipo di Belgio. E quindi dai, con la birra belga per... A chi che le importa? Le portate voi? No, io non so come faccio. C'hanno prezzo belga, la birra belga, dice, andiamo, mi sono quasi stare a casa, dico vai. E io mi ricordo che una sera, gli altri alla terza birra erano comunque un pochino titubanti. Quella birra belga è bella pesante. Picchiano, loro non se l'aspettavano. Invece c'era lo sborone, invece 4-5, sono tornato il giorno dopo, ragazzi, c'era un cerchione alla testa che l'avevo mischiato, c'era un cerchione alla testa e c'era il pranzo della vigilia. Da star male, e non ce la facevo più, insomma. Tu quando tornerai a casa il... Tornerò, guarda, faccio un percorso un po' complicato, torno il 18, vado a Londra, poi... esatto, vado a trovare amici e ragazzo e poi torno giù 22-21 forse, in aereo. In aereo? Sì. Il famoso Londra-Torino. Sì, Londra-Torino. Con la Ryan? No, non con la Ryan, perché la Ryan fa degli orari che sono inconcepibili e da degli aeroporti che, altro che Charleroi qua, che ci metti 45 minuti, è un viaggio solo arrivare all'aeroporto a Londra. Sì, mi ha detto, uno di voi a Londra diceva che andare a Stansted una volta aveva tipo perso l'aereo, c'era dopo 6 ore, e diceva che era... gli conveniva star lì 6 ore piuttosto che andare e tornare. Sì, certo. Non avevo mai fatto Stansted. E quindi era il mio consiglio. Senti, visto che siamo quasi in chiusura, tu sei per stare 1 mese e mezzo, 6 settimane, cosa hai fatto in questo, velocemente? Cosa ti hanno portato fuori, a parte le feste della commissione, gli stagiari, che non ci interessano, qualcos'altro? Non mi interessano, ma come? Ero prontissima. Cosa ho fatto? Sono stata un po' in giro fuori Bruxelles. Straordinario. E devo dire che il Belgio non lo conoscevo, ma ti mi piace moltissimo. Sì, ho visto Bruges settimana scorsa, questa settimana sono stata a Ghent per una conferenza, pensa, lavoriamo anche alla commissione. E devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita, soprattutto da Ghent. Dimmi. Continua a non piacerti la birra? La birra continua a non piacermi, ahimè. Se volete farmi ubriacare, vino. Se volete farmi ubriacare, vino. Quindi lanciamo questo appello ai nostri ascoltatori. Potete, se volete delle sue foto, potete scriverci a cenaradioma.105@gmail.com. Noi proporremo a trasmettere la sua foto e le sue misure. È molto alta, una ragazza molto alta, e quindi c'è molta roba da far ubriacare, quindi si va a livelli, quindi ci vuole molto vino bianco, perché il rosso lo trovo un po' pesante. Non le piace la birra, quindi insomma, magari, non so, mettete un po' più di sale nella vostra pasta, nel piatto che preparate, così lei avrà molta sete e berrà molto vino. Questa è una cosa che ci sentiamo dire. Mi raccomando Agnolotti, però. Mi raccomando Agnolotti, che sennò nemmeno entra in casa, nemmeno accetta l'invito. E quindi non salutiamo anche il ragazzo di Londra, in caso ci stia ascoltando. Speriamo di no, se no ci viene a picchiare la prossima volta. Ricordiamo allora che questo sabato, qui alla Maison de Couture de Saint-Gilles, sarà la sessione dell'Espace D.I. E alle 22 c'era Roman con Blues Rock, alle 23 ci sarà Tommy con Pop Rock. Questo sabato, anche in occasione del 10° anniversario della morte di Enrique Urquijo, il compositore dello Secreto, ci sarà la Rincón de España Casa Miguel, Michele il Calvo e non il Grasso, a Rue de la Batoire 1000 a Bruxelles. Suoneranno due amici di Centro Città, cioè Emilio e Nacho. E noi ringraziamo la nostra ospite Claire, sì. Fantastico, io non me la ricordavo. La nostra ospite è state con noi, Annalisa e Roberto dopo con il giro di boa. E ringraziamo Giulio in regia come sempre. Hanno un annuncio. L'annuncio? I nostri conduttori, prego. Di giro di boa. Prego. Avanti. Radioascoltatori di Centrocittà che Francesco e Giulio saranno nostri ospiti adesso a giro di boa. Mi siamo onorati, io non, sto anche comodo, quindi sarà una signor puntata. Che puntata, che musica su Radio Alma 101.9. Io estendo l'invito anche alla nostra ospite Claire, se vuoi restare anche dopo a giro di boa. Poi non parliamo di Londra neanche di Torino, siamo proprio... Ah sì, beh, abbiamo esaurito gli argomenti. L'abbiamo tirata stancamente fino alla fine senza neanche ricordarci il nome, quindi direi comunque è andato bene. E quindi allora tra pochissimo, cari ascoltatori, su giro di boa Giulio e Francesco saranno ospiti di Annalisa e di Roberto. A tra poco. Adesso le sorprese di Radio Alma. Your song.